c'è Marco e Marcello a Tempio e sono andato anche per portargli un carico di roba. Tempio, sono stato a Tempio Palau, dopo passaggio a livello. Certo. Tutta la Sardegna c'è, cioè, da Cagliari. Per l'Italia. Anche, è un grande gruppo. Come Crai, come Donna Isa, come Superiore anche. Certo. Tu sei un grande marchio, è Conad, no? Anche Conad, sì. Noi non abbiamo niente di meno della Conad, la marchio. Cosa ti stavo dicendo, Antonio? Lo sai che ci doveva essere lo sciopero dei fornitori, l'hanno avviato. Però revocato. Cappa. Cappa. Vedi niente, che ha buona di benzina. Io ho trovato la fila per mettere il gas e non ha giù molto, sono andato dritto. Ma come l'hai giù fatto così? Stamattina non ce n'era gas. Quando sono andato alle 8 non ce n'era. E tu vedi stasera perché c'erano 8 ponti, stava rifornendo. Guarda, stasera ragazzi era tutto pieno, nella benzina, nel gasolio, nel gas, tutto pieno. Certo, se ne va, non è tutto né uno né l'altro. Poi quando sono arrivato al produttore sono preso i furgoni tutti e due, ho riempito il serbatoio, ho fatto la fila per uno, la fila per l'altro. Cos'è Paolo? Secondo me vediamo se lo fanno nei papi di più benzina. Che ho pensato un sacco, lo sai. Che ha fatto un po' deficiente, eh. L'ho detto a quello del fornitore pure, Oggi ci avete venduto abbastanza, adesso che l'hanno revocato, comunque vi state sempre vendendo. E dice, vendiamo oggi, non vendiamo domani, e non è vero, perché se domani viene un altro gruppo, vedete anche a quello. E noi già a voglia, già ce l'abbiamo, ci abbiamo il pieno, cioè un po' di meno del pieno, beh. A voglia che dura tutta la vita. E anche io il gas già ce l'avevo, metto serbatoio, metto serbatoio di benzina, c'è abbastanza. Ma ho detto sempre meglio avere, ma ho visto tanta la gente, infatti ho detto, chi se ne frega, mi basta lo stesso, pigia e me ne va. Devo andare a lavorare a cantare. Che pagata. Stavo pensando di prendere il porter a gas. Il porter hanno fatto a gas. Ma per portare a bomba? Cappa, ricordo, ha fatto come la moto che abbiamo noi, dai. Però è un motore 4 T, motore di macchina, cioè. E c'ha doppia alimentazione, c'è anche. Ma 3 ruote? 4 ruote. Ah, io va meglio, almeno è qualche cosa di più confortevole, che almeno nella cabina sta tenendo. Cappa, soprattutto si risparmia un bel di benzina puro. Adesso cerco di convincere, perché dovevamo prendere mezzo nuovo, ma secondo me è quello l'ideale, doppia alimentazione, gas, benzina, si risparmia anche parecchi soldi la ditta. Cioè non mi lo fa andare a portatore se c'è quello che si è fatto tutto tipo, non so se la capisci che diciamo. No, questo è fatto per l'opera d'arte, proprio. Ti ha pagato, e poi sei bombono di sopra, via. No, questo è fatto niente di domanda, cioè il bombono è piccolo. E cosa vuoi, cazzo, ma un motore del genere, sarà 1000 di cilindrata. E a voglia che ti dura. No. Beh, ma stavo scherzando. Che si mangia che rimane alle risate. Chiappa. Sì, ma un motore così, cioè un motore del genere, è forte, il minimo farà 30 il porter. 130-140 se li fa, perché è un motore, Piaggio, dai. Non so se è Piaggio o Fiat, però è un motore di macchina, tutti gli effetti. Beh, qualcosa in più del carroccio c'è a mia. Sì, avevo chiuso già. Magari se ne rimango quando verrà e prima cammina di più, ci avrà anche l'aria condizionata e tutto. Ma magari quello, vabbè, non è che dell'aria condizionata ce ne importa più di tanto. Cosa ci importa di avere un mezzo forte, veloce? E che si stia bene lei. Chiappa, chiappa. Poi una si tiene una moto. Tutto che ti abbinati la batteria. Sì, già me la leo. Ho già aspettato un attimino, metto un bicchiere d'acqua e c'ho la bocca asciutta. Ciao, ciao. Ciao.